Mine Vaganti di Federico Taddia. Buon pomeriggio, buona domenica da Federico Taddia. Eccoci qua con Mine Vaganti, il secondo appuntamento con questo programma che vi accompagna nella domenica pomeriggio, nei vostri viaggi, nel vostro stare in casa. Andiamo alla ricerca di un'Italia meno raccontata, un'Italia poco conosciuta. Avremo storie, avremo personaggi di attualità, del costume, di costume, per raccontare un'altra società. Lo faremo in maniera divertente, lo faremo in maniera informale, lo faremo anche con i vostri interventi. 349-238-6666 per gli sms, oppure 800-2400-24 se volete intervenire attraverso il nostro numero verde. In studio con me c'è una ragazza, è un avvocato, si chiama Marisa, viene da Empoli, ha 32 anni, è una ragazza carina, una professionista in carriera, ha vissuto 3 anni in Lussemburgo e adesso vive a Milano ed è protagonista di una strana storia. Marisa, possiamo dire che è una storia di solitudine? Sì, anche. Intanto ciao a tutti e scusate per la voce, ma mi sono presa una laringite perché ho sforzato troppo le corde vocali in queste settimane. Comunque sì, è anche una storia di solitudine, ma non solo. È una storia che cerca anche di raccontare un volto diverso di Milano a chi di Milano non è, ecco. E la storia di Marisa inizia quando lei ha scritto questa lettera. Ciao Beppe, sono Marisa, avvocato. Ci siamo conosciuti alla Pizza Italians in Lussemburgo 3 anni fa. Mi sono trasferita a Milano per lavoro da un paio di mesi e me ne stanno capitando di tutti i colori. Fare amicizia in questa città è più difficile che vincere all'otto. Mi sono iscritta a tutti i corsi più assurdi, dal ballo liscio ai corsi per imparare a scrivere favole, ma ancora non sono riuscita a mangiare una pizza con un bel gruppetto di milanesi. Tra la posta ho ritrovato il tuo indirizzo. Se organizzi una pizzata a Milano, magari fammelo sapere. Non sarà molto esotico, ma potrebbe essere divertente. Ho frequentato anche giornalisti in questo periodo milanese. Ne sono uscite fuori serate degne di un film. Credo di aver incrociato solo casi umani. Ma dove vanno i milanesi quando i navigli sono ghiacciati e quando inizia il disgelo? Abito proprio in zona, ma mi ritrovo a passare le serate da sola in libreria. Boh. Ieri un collega mi ha detto: Marisa, io sono fidanzato e non posso avere amiche. Saresti un problema. Ma ragionano tutti così a Milano? Ciao e scusami se ti ho disturbato. E lei, la Mina Vagante, che oggi ci accompagnerà con la sua storia, perché da quel giorno sono passati più o meno... Era il 15 maggio, okay, prima mail. Tu hai scritto un'email a Beppe Severnini, sì. E lui ti ha di fatto adottato, sì, la tua email l'ha ripubblicata sul suo sito, dopodiché cosa è successo? Dopodiché è successo qualcosa di inaspettato anche per me, perché io avevo scritto, ecco, questa mail anche come sfogo personale, e in realtà ho ricevuto già da subito circa 300 mail. All'inizio, il primo giorno 100 mail, poi anche i giorni successivi continuavo a ricevere mail, richieste di amicizia su Facebook. E ecco, erano storie anche molto interessanti, nel senso ognuno cercava di raccontarmi la propria esperienza a Milano, sia milanesi che invece persone che venivano addirittura da Shanghai, dalla Patagonia, che si erano trasferiti appunto da Milano in altre città e cercavano di raccontarmi la loro Milano, cioè cercavano anche di spiegarmi in qualche modo come ambientarmi in questa città che solo all'apparenza per la maggior parte sembra una città difficile, in realtà, ecco, con molti lati da scoprire. E da qui è iniziato un po' il gioco. Ecco. Cerchiamo di capire intanto se il problema è Milano o il problema è la città. Qui la storia di una ragazza normalissima, appunto, come vi ho detto, una ragazza con un lavoro, una ragazza carina, una ragazza che arriva in una città, in una metropoli, Milano, ma credo che possa essere paragonabile a tante altre città. E sì, ok, lavora tutto il giorno, però poi si ritrova a non riuscire a instaurare rapporti, a instaurare nuove amicizie. Tu sei una che ha sempre socializzato, sì, facilmente, molto facilmente con tutti. E scrive questa lettera e inizia a ricevere tantissimi inviti e il gioco diventa questo: accettare tutti gli inviti, quindi dire sempre di sì ad ogni invito che io ricevevo, soltanto che erano tantissimi, perché io alla fine, dopo, ecco, adesso dopo 4 mesi e mezzo siamo arrivati a circa 400 inviti più o meno, quindi io ancora tutti ovviamente non li ho accettati, però sto cercando, ecco, di accettarli tutti e di onorarli tutti. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo e sono inviti anche molto belli, tra l'altro ho ricevuto mail da persone che vanno dai 20 anni fino agli 85 anni, quindi sono stata catapultata entrata nelle vite di tutti coloro che insomma mi hanno letto e poi hanno avuto anche la gentilezza di scrivermi. Cancelliamo subito il pensiero che sicuramente è comparso nella testa dei nostri ascoltatori: tu non stai cercando il fidanzato, no, non stai cercando una storia, non stai cercando rapporti particolari. Qualcuno ha frainteso. Qualcuno ha frainteso, lo immagino, perché può succedere, sì. E perché insomma di gente strana in giro ce n'è tanta, e tu invece hai accettato proprio quegli inviti dove c'era possibilità di instaurare una relazione di amicizia. Sì. Faccio un esempio intanto, poi sono tantissime, faremo una lunga carrellata dei tuoi incontri. La maggior parte erano inviti semplici, fatti con naturalezza, di persone che onestamente mi dicevano di aver avuto in un periodo della loro vita particolare il mio stesso impatto con questa città. Quindi erano inviti veramente spontanei, carini, che mi hanno dato proprio l'impulso di accettarli tutti, appunto, proprio per questa naturalezza. Poi le trovate sono state più originali, giustamente ognuno voleva farmi scoprire un aspetto particolare di questa città, l'aspetto più bello, almeno quello che a loro piaceva di più. Ad esempio c'è stato un ragazzo che mi ha invitato a un incontro di Ayurvedica tenuto da un ex cestista americano. Anche questo è stato il tuo primo, la questa tua prima uscita ufficiale? La mia prima uscita il 20 maggio, quindi dopo la video chat con Severnini ho ricevuto questa mail di una persona che appunto diceva di aver letto la mia mail, che quindi avrebbe avuto piacere condividere con me una delle sue passioni, che era appunto la Ayurvedica. Ed è stato un incontro molto bello perché è nato con semplicità, siamo stati a questo incontro, è stata una serata piacevole e quindi è una delle... E non vi siete mai più né visti né sentiti? No, e questo è sembrato abbastanza naturale però a entrambi, nel senso, dopo quell'incontro non ci siamo più visti. Lui mi ha aperto una finestra sul suo mondo fatto anche di questo, di questa passione. Dopodiché è come se lui avesse dato un contributo alla mia storia, cioè lui voleva dare un'impronta alla mia storia facendomi conoscere questo aspetto di Milano, cioè questo aspetto di Milano che a lui evidentemente aveva incuriosito, e sì, sinceramente ha incuriosito anche a me. Mi ha fatto conoscere la piramide di Cusci, per esempio, che il regime alimentare. È impegnativo chiedere. Io l'ho anche messa in pratica. Cioè, nel senso che è una sorta di piramide alimentare, alimentare per scegliere cosa mangiare durante la settimana. Alimentazione cereali, ho provato con esiti anche abbastanza. Ok, adesso non entriamo nei dettagli perché sono 400 inviti, non possiamo certo entrare nei dettagli di tutti. Allora chiederei ai nostri ascoltatori però di intervenire. Allora, sì, se anche voi vi siete inventati qualcosa di strano o di curioso per instaurare nuove amicizie, o anche voi avete un'esperienza di solitudine tra virgolette da raccontare, 824 0024 per farlo è attraverso il numero verde, oppure i vostri sms al 349 238 6666. Beh, stessi numeri anche se volete fare un invito strano o curioso a Marisa, perché la sua agenda volentieri ancora qualche spazio, e c'è anche qualche sano folle in giro, e c'è una persona per esempio che si è ispirata a te per scrivere una canzone, vero? Sì, è una persona, sì, che mi ha scritto facendomi ascoltare questa canzone e in qualche modo dedicandomela, dicendo che insomma aveva molte affinità con la mia storia e che quindi mi ha voluto condividere con me questa canzone, che insomma mi sembra carina, ecco. Adesso saranno i nostri ascoltatori a dirlo se è carina, perché noi questa canzone l'abbiamo scovata. Sto imparando ad amarti Milano, sto imparando ad amare il tuo suono, sto imparando ad amare anche il tuo caldo afoso che sembra fermare il respiro. Sto imparando ad amarti Milano, sto scoprendo che in fondo è un sorriso, uno sguardo, un respiro e sotto il frastuono un cuore che batte davvero. C'è un velo di tristezza in questa canzone di Michelangelo o Prandi, però insomma sì, ti sei portata a casa anche una canzone con dedica. Sì, a me piace, ha fatto molto piacere, ecco, come altri inviti che ho ricevuto che mi hanno veramente incuriosito, colpito, e sto insomma cercando di continuare di conoscere tutti i lettori, ecco. Sono 400 inviti a cui devi accettare. A quante persone più o meno hai tenuto il conto di quante persone hai già conosciuto? È difficile tenere il conto, ma tanti, perché a volte ci sono anche dei gruppi, tipo mi hanno invitato anche un gruppo di beach volley, quindi solo loro sono 12, per cui io credo un centinaio di persone già conosciute. Tutto cominciò il primo gennaio del mio 32esimo anno da single. Ancora una volta mi ritrovavo tutta sola all'annuale buffet freddo di mia madre a base di tacchino al curry. Ogni anno prova ad appiopparmi un noiosone di mezza età con i capelli a cespuglio, e io temevo che questa volta non avrebbe fatto eccezione. Oh, sei arrivata Pallocchetta? Mia mamma, una creatura di un universo in cui offrire i cetriolini sott'aceto è ancora il massimo della raffinatezza. Sotto bicchieri, Pam, ciao Bridget. Ah, terzo cassetto dall'alto, io una sotto i cetriolini. A proposito, ci sono i Darcy. Hanno portato anche Mark con loro. Per l'appunto. Te lo ricordi, Mark? Una volta giocavi nella sua piscinetta e un avvocato se la passa molto bene. Ma non me lo ricordo neanche un po'. A quanto pare è divorziato. Sua moglie è una giapponese. Beh, lei è Bridget Jones. Un po' la tua storia. Ok, tu non cerchi il fidanzato, però ha 32 anni. 32 anni. Sei avvocata, insomma, il tuo diario. Mi un po' lo stai molto scrivendo, sì. Giorno dopo giorno. Tantissime mail. Ti hanno scritto solo ragazzi? No. Molte ragazze. E con alcune di loro sono uscita più volte. Sta nascendo anche una bella amicizia e quindi mi hanno scritto ragazze che hanno vissuto un periodo di solitudine per vari motivi, per rotture di rapporti, eccetera, o semplicemente per condividere con me la loro esperienza di una città. Ad esempio, anche una coppia di coniugi mi ha invitato a fare una gita a Pavia. Quindi ecco, ci sono stati molti incontri, insomma, che originali, oppure una famiglia con un bambino di 8 mesi che mi ha invitato a casa loro e la serata è finita cantando con la chitarra nel salotto, per esempio. Quindi ecco, io ovviamente accetto sempre con entusiasmo questi inviti perché mi fa piacere condividere con loro queste serate che sembrano surreali e in parte un po' lo sono, perché io sono una sconosciuta per loro, in realtà mi aprono le porte di casa. Oppure ecco, sempre lo stesso gruppo di amici mi ha fatto vedere un video di 1:40 in cui mi facevano vedere appunto le loro gite, quindi un video sull'amicizia per dimostrarmi che a Milano l'amicizia appunto esiste. Cioè, una noia tremenda quella serata. Infatti a un certo punto l'ho bloccato. Hai detto basta, sì. ho capito. Però ho apprezzato il gesto. 400 inviti, li sta accettando tutti, però aspettiamo anche le vostre storie. Se vi siete inventati qualcosa di curioso in città o non solo per instaurare nuovi rapporti, oppure se volete fare qualche invito particolare a Marisa, 824 0024 per farlo attraverso il numero verde, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi. Arriva un messaggio da Roma che dice: cara mia, dovevi venire a Roma, ma le pizze tra avvocati le facciamo, e come? Verrò anche a Roma. Perché è questo quello che tu cerchi, no? Situazioni. Sì, mi piacerebbe, ecco, che si creassero situazioni conviviali tra colleghi, tra amici, eccetera. Milano, l'impressione che io avevo avuto appena sono arrivata era invece quella di una città un po' più fredda, magari ci vuole più tempo, come tanti infatti mi hanno suggerito. Infatti chissà se il problema è solo Milano, e per capirlo abbiamo invitato uno dei tra i tanti che ti ha scritto una mail, sì, perché ci ha colpito. E lui scrive da Parma, anche lui aveva più o meno lo stesso problema e si è inventato uno stratagemma niente male per fare nuovi incontri. Diamo il benvenuto ad Alberto Rosa. Ciao Alberto. Ciao Federico, ciao Marisa. Ciao Alberto. Riconoscerti anche. Piacere mio. Perché non, tu, non ci siamo ancora visti, però spero di conoscerlo presto, ma ci siamo scritti anche su Facebook, è un mio nuovo amico, quindi no. E spero però di vederlo presto. Altrettanto. Grazie. Alberto, tu hai una storia simile a quella di Marisa? Sì, una storia simile, nel senso che io sono di Conegliano, che è in Veneto, e per lavoro mi sono trasferito a Parma. E questo a gennaio di quest'anno, e Parma, che pur non essendo una metropoli come può essere Milano, secondo me ha gli stessi problemi di Milano per chi viene da fuori, e ho incontrato anch'io qualche difficoltà, diciamo, di inserimento o comunque di occasione per incontrare nuovi rapporti, nuovi amici, delle frequentazioni, anche perché Parma offre molto dal punto di vista culturale, però bisogna sempre avere un aggancio, no, per entrare. E così un giorno, andando in un noto store di arredamento svedese, sì, ho incontrato un wok. È già montato o te lo sei dovuto montare tu? Perché no, sai, il wok è già montato. Benissimo, ok, questa è no, importante. conoscendo appunto lo store, la domanda viene spontanea. E scusa se ti ho interrotto. Quindi hai comprato il wok e dopodiché? Dopodiché ho unito al wok la mia comunque passione per la cucina e ho iniziato a usare il wok per fare delle cene. E la prima cena l'ho fatta, era una carbonara, sì, nella fine marzo, inizio aprile di quest'anno eravamo in due. L'ultima cena 2 settimane fa eravamo in 16. Secondo me è importante sottolineare che io a Parma abito in un bilocale, per il catasto, ma in realtà è un monolocale di 30 metri quadrati. Okay. Stare in 16 è già questa anche una bella impresa. Ma scusa, 16 sconosciuti o hai fatto un annuncio? Come ti no, sei no, comportato? No, ho iniziato invitando un collega. Poi questo collega l'ha esteso un altro collega, poi amici di amici di amici, e quindi da due siamo arrivati in 16. Tra l'altro cambiano, 16 è l'ultima cena, ma cambia sempre la composizione della tavolata. E da questo, dalle mie ricette anche un po' stravaganti, poi dalla cucina si passa a delle uscite al Parco Ducale di Parma, che è bellissimo, per andare a sentire Bob Dylan, oppure uno spettacolo di balletto cubano. Insomma, dopo una volta rotto il ghiaccio diventa tutto più facile. Esattamente. Alberto, grazie davvero per averci raccontato la tua storia. Grazie, immagino, Alberto, che alla prossima cena Marisa ci sarà. Posso venire, mi posso unire. Ma ci mancherebbe, volentierissimo. Io ti ammiro, per me sei già un eroe, perché 16 persone in un monolocale. Cioè, io un monolocale di 28 metri quadri sarebbe un'impresa. Ma poi Wok ha anche questo vantaggio, secondo me, che quando smetterò di usarlo, girandolo con tre corde diventa un banjo, quindi si può utilizzare. Ero già a lampadario, io invece no. Vabbè, siamo qui all'elogio del Wok. Ciao Alberto, grazie. Ciao, davvero. Alberto, ciao ragazzi. Ciao. 824-0024, le vostre storie di nuove idee per fare socializzazione, oppure via sms al 349-238-6666. Da Milano, quindi siamo sempre legati a questa città, ci chiama Omar. Ciao Omar. Ciao. Buona domenica. Buona domenica. Anche tu hai avuto un'idea curiosa per farti nuovi amici? Sì, noi, diciamo, io e mia moglie, noi abitiamo a Milano da qualche anno, per cui non siamo proprio appena arrivati in città, però comunque per movimentare gli incontri che facciamo alla sera, per non uscire sempre con la stessa gente, abbiamo cominciato a fare queste cene per stranieri in città, no? Per cui mettiamo degli annunci sulla Free Press milanese e offriamo delle cene a turisti, studenti stranieri, perché la cosa serve anche a noi per fare una serata in inglese e quindi migliorare la lingua, no? Ma vi fate pagare? No, loro guadagnano una cena e noi guadagniamo 2 ore di conversazione, per cui ci guadagniamo tutti, ecco. E poi è divertente, perché comunque in 6 mesi sono arrivati in casa ragazzi giapponesi, indiani, perché poi insomma basta che parlino inglese, non è che devono essere proprio madrelingua, o insomma per noi è divertente comunque, no? 2 ragazzi colombiani, insomma, possono venire abbiamo anche allargato toscani? Abbastanza, eh? Possono venire anche i toscani, chiede sì, Marisa. Sì, alla fine una volta è venuta anche una ragazza italiana che si fingeva straniera per scroccare la cena. Succede questo. Però è bello, insomma, anche per loro, perché io ho pensato che sarebbe un tipo di annuncio a cui risponderei molto volentieri se fossi all'estero, in una città che non conosco, anche per pochi giorni, no? Per passare una serata con locali, mangiare quello che mangiano loro, insomma, mi sembrava una cosa divertente anche per chi risponde, per cui in effetti funziona bene. Omar, noi cerchiamo mine vaganti e direi che insomma abbiamo centrato con te, perché la tua è un'ottima idea. Grazie davvero per averla condivisa con noi, e tra l'altro è un'idea molto simile a un'altra storia che invece vi volevamo raccontare. Si parla sempre di relazione, in questo caso però legato anche a una professione. Stiamo andando in Sardegna e stiamo andando a Bosa, una bellissima città, dove una coppia, sono di Padova, hanno vissuto a Modena, dove però raccontano che sì, insomma, si sentivano stranieri, e quindi basta, una volta anche deciso di cambiare lavoro, si sono trasferiti in Sardegna, lì hanno aperto un bed and breakfast e hanno deciso, erano 5 stanze, che 3 stanze le avrebbero riservate ai clienti, una sarebbe rimasta a loro e la quinta invece sarebbe stata destinata al baratto. Con noi c'è Sebastiano Zappulla, che ha avuto questa idea. Ciao Sebastiano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona domenica. Buona domenica anche a voi. Quindi si può essere ospitati nella tua struttura in cambio di cosa? In cambio di qualunque cosa sappiate fare o qualunque bene volete darmi al posto di una settimana o comunque di qualche giorno nel mio bed and breakfast. Quando l'hai aperto? Noi l'abbiamo aperto a giugno, quindi però il baratto era già stato comunque pensato da una coppia di Livorno, sì, e sempre di Bosa, che avevano già iniziato a fare questa esperienza. E parlando con loro poi mi hanno fatto venire anche a me la voglia di barattare, e loro poi volevano chiudere questa esperienza, quindi l'ho continuata io. E sì, l'esperienza è veramente unica, e anzi, se c'è qualcuno che ha un bed and breakfast lo consiglio di fare, perché è veramente una bella esperienza. Sebastiano, in cosa sta l'unicità? E dove sta il guadagno, tra virgolette guadagno, ovviamente? Ma il guadagno, se può parlare di guadagno, è nel fatto che cresci personalmente. Infatti, come dicevi te, io sono da Padova, ho lavorato a Modena, sono province abbastanza laboriose, e non crede, e conoscendo molte persone proprio col baratto, non mi sarei mai immaginato che ci fosse un altro modo di vivere. Non lo so, faccio un esempio. Sì. Viene molta, chi fa questo tipo di baratto è gente molto creativa e anche molto, molto aperte a nuove forme di vita. Mi è capitato molte volte di trovare gente che, non so, che ha cambiato stato 4-5 volte nella vita, con la famiglia, che ha cambiato lavoro in continuazione, che si mette sempre in discussione. E questo a me mi ha arricchito, perché io pensavo che ci fosse solo un tipo di vita, no? Quando uno trova il lavoro, si sposa, la casa, vive là, muore là, e invece poi, insomma, questa esperienza mi ha insegnato che poi non è sempre così. Ma ci puoi fare qualche esempio pratico di ospiti che hai avuto, e certo, appunto il baratto in cosa sì, si è concretizzato? Bene, no, allora magari faccio uno semplice, che è stata una signora che mi ha portato del riso. Ma tanto riso? Abbastanza. E un'altra, un musicista che suonava per noi la sera. Nella nostra terrazza si metteva a suonare la sera, magari chiamavo qualche amico, magari passavamo qualche notte con la musica di questo musicista, e una cosa proprio meravigliosa. Quindi lui era ospitato, dormiva lì, faceva colazione lì, tutti i servizi. Dormiva là, faceva colazione là, andavamo in giro insieme, quindi anche là è un modo di socializzare molto forte, ma anche perché la stanza del baratto è la stanza vicino alla nostra, la sera stavamo insieme, si parlava. Quindi insomma una vera condivisione. Ma e gli altri clienti, quando scoprivano appunto per esempio che il cantante non pagava, erano invidiosi? Assolutamente no, anzi mi dicevano fammi sapere che lo voglio fare anch'io, che io sono un falegname o sono un elettricista, oppure non so, in questo momento io mi vorrei concentrare nella produzione di prodotti naturali, no? Perché mi piacerebbe che l'anno prossimo il mio bed and breakfast fosse completamente autoprodotto, dal sapone alla torta, alla marmellata. Quindi stai aspettando vacanzieri capaci di insegnarti queste, sì, tecniche. Ho capito. Sì. Allora, diamo le dritte per contattarti. C'è un blog che è Blu Bosa, perché blu è il nome del B&B, e sì, blubosa.blogspot.com. Ciao Sebastiano, complimenti per questa bella scelta e buona estate a te e a tutti i tuoi ospiti. E grazie. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. E abbiamo preso in prestito Città Vuota di Mina per parlare di Milano e delle altre città, città vuote, città dove è difficile forse fare amicizia, ma proprio Mina oggi scrive in prima pagina della Stampa, il suo solito editoriale domenicale, il titolo è "Quell'amico in affitto". L'amicizia è un bene prezioso, è inutile scherzare su una tale banalità. Oggi se ne conosce anche il prezzo. Se non ci credete, fatevi un giretto sul sito rentefend.com, sito che è stato lanciato in questi giorni, arriverà presto anche in Italia, dove è proprio possibile affittare per qualche ora un amico, una persona con cui stare. Un'ulteriore provocazione che ci serve per raccontare questo spaccato di società, di quotidianità che rappresenta la storia di Marisa qua con me in studio. Ha detto: mi sento solo a Milano, non riesco a instaurare nuovi rapporti. Ha ricevuto centinaia di inviti e da quel momento ha deciso di accettarli tutti, quasi come una sfida, quasi come una provocazione. Marisa, portaci in altri incontri che hai, allora, che hai vissuto. Gli incontri sono stati davvero tanti, cioè da ragazzo che mi ha invitato a ballare latinoamericano alle imprese più spericolate, abbiamo ancora in agenda parapendio, rafting, idrovolante addirittura, oppure alle cose più semplici ma che lasciano anche un segno. Ad esempio mi hanno contattato e poi ho visto signore anche di 65 anni che mi hanno invitato con semplicità, mi hanno aperto le porte della propria casa invitandomi a cena e raccontandomi la propria storia. Ad esempio questa signora veniva da Napoli, aveva i figli che lavorano all'estero, a Shanghai, in Inghilterra, e per cui conosceva bene insomma il problema della solitudine, e mi ha preparato una cena meravigliosa raccontandomi uno spaccato della propria vita. E sono serate che onestamente lasciano qualcosa dentro, insomma è bello vedere che esistono persone anche di una certa età che aprono le porte a sconosciuti fidandosi in qualche modo dell'altro. Oppure proprio di recente, una settimana fa, ho ricevuto una mail e poi l'ho contattato, una signora di 85 anni che mi ha fatto addirittura commuovere, perché mi ha detto... Ti ha scritto lei la mail direttamente? Lei ha scritto una mail a Severnini, Severnini me l'ha girata col numero di telefono della signora, quindi l'ho chiamata immediatamente e lei, ecco, mi ha fatto commuovere perché tra l'altro lei mi ha detto che quando ha visto la mia foto sul giornale, ha letto la mia storia, si è immedesimata in me. E praticamente lei viene da un paese vicino a Empoli, dal quale vengo anch'io, alla stessa età alla quale io sono approdata a Milano, lei arrivava a Milano, quindi mi ha raccontato un po' il suo percorso e nel suo caso è stato un epilogo poi felice perché si è inserita, e si è inserita bene, adesso addirittura ha difficoltà quando torna al suo paese di origine, e quindi mi ha già invitato a pranzo una di queste domeniche, quindi sono felice di accettare anche questo invito. Aspettiamo anche le vostre idee, i vostri stratagemmi curiosi per farvi nuovi amici. 824 0024 è il numero verde, 349 238 6666 invece per farlo via SMS. Ci scrive Giuliano, per esempio: invito per Marisa, dato che le piace la lettura vorrei invitarla nel nostro gruppo a Nobi Monza e Brianza, ci incontriamo tutti i 20, il giorno 22 di ogni mese, mettiamo in pista un argomento e ognuno condivide la lettura di un brano, un libro. È nato un gruppo meraviglioso di amici. Volentieri, accetto volentieri questo invito, mi fa molto piacere, anzi credo sia una specie di un gruppo di scrittura creativa che tra l'altro a me piace molto, quindi lo ringrazio per questo invito. Poi magari se mi contatta personalmente ci mettiamo d'accordo, perché no? Intanto segnalo, perché segno, è il 22. Intanto segno. Ok. Cambiamo storia, anche se parliamo ancora di relazioni, e lo facciamo con L'albero di Francesca. Proprio come un albero mi spoglio e mi rivesto, a seconda se c'è freddo c'è calore. Dentro la genetica, la mappa delle cellule descrive a quale genere appartengo, se sono una quercia oppure un salice piangente oppure un babavo d'un fatto di pianura. Quello che è importante è che al mondo ci sia spazio per qualsiasi espressione di natura. Prendi il sole in faccia, bevo molta pioggia, prendi il sole in faccia. È un albero strano quello che vi andiamo a presentare, un albero che parla di vita ma che inizia in un giorno di morte. Muore una nonna e per la prima volta i 15 figli si ritrovano tutti insieme. Era da anni che non c'era un incontro di tutta questa famiglia. E la nipote, una nipote che fa la fotografa, si rende conto che per la prima volta il sogno della nonna, che era quella di avere una fotografia con tutti e i 15 propri figli, questo sogno si può realizzare, ed escogita un modo tutto suo per andare a ricomporre questo particolare albero. Diamo il benvenuto a Francesca Galli. Ciao Francesca. Ciao. Buona domenica. Tu sei una fotografa, un artista? Sì, sono una fotografa, ma mi definisco storiografa, diciamo. In che senso? Perché mi piace raccontare storie. Quindi tu utilizzi... attraverso la fotografia, esatto. Utilizzi la macchina fotografica per ricostruire radici, ricostruire identità. Esatto, esatto. Mi affascina molto quello che c'è prima di noi, quello che viene prima di noi. E quindi ricompongo, diciamo, i cocci delle storie, delle persone, della gente. E, insomma, credo non sia bello ricordare, perché era un momento di lutto, però il tutto parte dal giorno del funerale della tua nonna. Certo. Nonna che tra l'altro da morta ha fatto una sorpresa, chiamiamola così, ai propri figli, vero? Esatto, ha nascosto dentro un armadio 15 calici con una bottiglia di nocino del nonno, fatto nell'81. Era una sorta di ultimo brindisi. Esatto, l'ultimo brindisi l'abbiamo fatto sotto un salice, proprio una scena molto cinematografica. Tutti insieme per la prima volta, tutti questi 15 fratelli si sono riuniti e hanno raccolto, diciamo, tutte le memorie e i loro ricordi, le loro immagini. C'era un album fotografico che girava delle vecchie foto che la nonna aveva conservato, spesso senza sapere chi fosse magari il nipote o il figlio, perché 15 figli, diciamo, da tenere in memoria sono tanti. Ecco, E lì ti è partita l'idea che era quella di ridisegnare attraverso la fotografia tutto l'albero genealogico della tua famiglia, e però c'era la difficoltà di fare tutte queste foto. Come hai risolto, come hai superato l'ostacolo? Sì, perché per me erano parenti semi sconosciuti, allora ho lasciato l'opportunità di raccontatevi voi con le vostre foto di famiglia. E ricostruite voi il nostro album genealogico, si può chiamare, le nostre radici. Quindi perché non lasciare spazio, visto che oggi tutti possono scattare con il mezzo, insomma, di comunicazione che è abbastanza tecnologico e avanzato, tutti possono fare una bella fotografia. Io ho lasciato spazio perché penso che sia importante l'idea e il progetto, avere un'idea e un progetto. Quindi non mi interessava una qualità tecnica fotografica, ma volevo delle fotografie standard. Quindi ho fatto girare un pacco contenente una digitale che ho comprato in giro per l'Italia, perché sono tutti sparsi, hanno tutti una famiglia sparsi per l'Italia. In una puntata di Mine Vaganti, dove stiamo parlando di relazioni strane, nuove, occasionali, ma che possono diventare anche relazioni profonde, stiamo ricostruendo l'albero di una famiglia. Lo stiamo facendo con Francesca Galli, fotografa che ha avuto un'idea particolare per fotografare in un modo assolutamente originale tutta la sua numerosissima famiglia. E quindi, Francesca, hai detto ok, non posso andare io, o comunque non hai voluto, perché era anche un progetto sperimentale, e quindi andare tu a fare queste foto. Hai preparato un pacco, e dentro questo pacco cosa hai messo? Ho messo una digitale di quelle compatte con le istruzioni del progetto, degli scatti che dovevano realizzarsi, con 15 buste affrancate che servivano per la spedizione, con 15 CD-ROM, e loro dovevano di volta in volta scaricare le fotografie, le immagini che io ho richiesto tramite questo foglio illustrativo sul CD e spedirlo, buste già affrancate con i soldi. Quindi il pacco veniva spedito al fratello successivo e il CD veniva spedito a me. Fantastico. Quindi è partito questo pacco, il pacco completo, cioè non dovevano fare altro che fare le foto, poi al resto avevi pensato tutto tu, era prepagato, c'era il CD, loro non dovevano fare altro che fare questi scatti e poi inviare il pacco al fratello successivo, una sorta di catena di Sant'Antonio, che però aveva un obiettivo ben dichiarato. E quali fotografie chiedevi? Allora, chiedevo delle cose molto standard e delle immagini molto semplici, come ad esempio il piatto del cibo, del pranzo, oppure di fotografare il coniuge sul divano, oppure il televisore, oppure il mezzo di trasporto, la casa con davanti la famiglia, i piedi dall'alto, i piedi di tutti i 15 fratelli. come proprio simboli. Ecco, ma in questo, nel pacco avevi messo anche delle foto, esempio, delle esempio, foto modello. Esatto. Sì, ok. Quindi sì, era per proprio... renderlo ovviamente semplice, insomma. Quindi era una prova di, cioè, anche se uno proprio non aveva mai preso in mano una macchina fotografica, ce la poteva fare. Sì, assolutamente. E i 15 fratelli e sorelle sono stati bravi? Hai ricevuto tutto il materiale? Ho ricevuto tutto il materiale. In un anno ho raccolto tutto e realizzato tutto. Insomma, un anno è un lungo periodo, però diciamo che sono stati tutti molto molto bravi a raccogliere questo materiale e soprattutto mi è piaciuto lo spirito con cui l'hanno fatto e la voglia, e oggi sono veramente contenta perché tutti quanti loro hanno una fotografia insieme. È fantastico, e il viaggio di questo pacco immagino abbia attraversato tutta le l'Italia. Okay. Con successo. Con successo, il pacco non si è perso, anche questa è una notizia. Questa è una notizia, sì. Francesca, complimenti davvero, so che ora sei in Sardegna a bordo di una 500 per un altro progetto che magari ce lo racconterai esatto. In una prossima tappa della tua carriera. Autoritratto, ok, esatto. ci sta. Complimenti. Questa volta sono io a fotografare. Complimenti Francesca, grazie davvero per averci raccontato il tuo progetto. Questa è Mine Vaganti, 824 0024, è il numero verde 349 238 6666. Per i vostri messaggi abbiamo iniziato parlando di solitudine e di solitudine continuiamo a parlarlo e lo facciamo con Gaber. Per star bene in compagnia uno c'ha tante idee, ma di modi di stare insieme ce n'è solo due. C'è chi vive in piccole comuni o in tribù, la famiglia o il rapporto di coppia c'è già nei capitoli precedenti, ormai non se ne può più. La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia. Giorgio Gaber che parla di solitudine ovviamente nel suo stile, e Giorgio Gaber di cui si è concluso ieri il festival a Viareggio che ogni anno lo ricorda. Con me in studio Marisa, sono arrivati diversi messaggi per te, messaggi anche diversi, per esempio il problema di Marisa è comune purtroppo, io sono di Roma e sono trasferita a Mestre per lavoro, potete immaginare la differenza, avevo un amico sul territorio ma non sempre è cosa buona contare su di lui, ci si conosce già. A volte il cambiamento è auspicabile anche per quelli. Comunque, insomma, per dire che le difficoltà nei rapporti umani è comune averla lontano da casa. Mentre Valentina dice: sono stata a Milano per 16 anni, prima per studio, poi per lavoro. Da 2 anni sono a Roma e non riesco a stabilire dei rapporti schietti con le persone di qui. Qui il calore è finto, meglio il distacco iniziale di Milano. Sono toscana anch'io, quindi non è la colpa di Milano, forse è la città. Forse le dimensioni della città che sicuramente incidono sui rapporti umani, le caratteristiche della città, e a ogni città bisogna dare probabilmente un tempo diverso, non lo so, ecco, l'impatto iniziale sicuramente è diverso nelle varie città, ecco. Anche se sicuramente hai toccato un nervo scoperto, perché ogni volta che si parla della tua storia vedo che comunque ognuno ha qualcosa da dire, perché probabilmente questa difficoltà di socializzazione è cosa comune. Tra l'altro mi dicevi a microfoni spenti che è difficile per esempio diventare amici o comunque anche solo uscire con una pizza con per esempio uomini fidanzati. Sì, anche questo è capitato, insomma, mi è capitato di verificare in questa città che spesso si tende un po' a isolarsi nella propria vita già costruita, quindi con i propri impegni. Da un certo punto di vista questo è anche comprensibile, questa è una città che va veloce, va di corsa eccetera, però ecco, il rischio opposto è quello di chiudersi eccessivamente all'altro e di impedire al dialogo, come diceva il ragazzo prima. Il dialogo in realtà arricchisce sempre, quindi a prescindere dalla situazione, da chi ha una famiglia, da chi non ce l'ha, è ovvio che chi viene da fuori come me ha uno stimolo in più ad aprirsi agli altri, a conoscere, appunto perché è una città nuova, ha molta più curiosità e avrebbe voglia di conoscere in fretta le persone. Magari chi ha una famiglia, una fidanzata, il rischio invece è quello di chiudersi in se stessi e di non lasciare che gli altri penetrino nella propria vita. Questa è la sensazione anche di chi continua a scrivermi, perché io adesso a distanza di quasi 2 mesi continuo a ricevere mail anche o richieste amicizia su Facebook, quindi evidentemente è un problema abbastanza sentito, ecco. sei andata anche a una cena dei solitari? Sì, questa è stata bellissima in realtà. Sono riuscita ad organizzare una cena perché io continuavo a ricevere una valanga di mail di persone che volevano uscire con me. All'inizio ho fatto incontri singolarmente con ognuno di loro, poi mi sono accorta che io non riuscivo ad uscire con tutti perché erano troppi, e quindi ho cercato di coinvolgerli tutti in una pizzata, e il risultato secondo me è stato un successo perché si sono presentate circa 60 persone e un ragazzo mi scrisse dicendo: Marisa, ma con questi numeri sembra un matrimonio. In realtà appunto mi ha dato un'idea, e è stata quella di lanciare a fine serata il bouquet. Allora io mi sono presentata con il bouquet, e a fine serata chi avrebbe preso il bouquet avrebbe dovuto anche organizzare poi la serata successiva. E la cosa divertente è che erano tutti molto timorosi, addirittura nessuno voleva prendere questo bouquet, che l'hanno fatto cadere in terra. È questa la cosa che poi in realtà un ragazzo lo ha sollevato, e quindi si è preso la briga di organizzare l'uscita successiva, che sarà un volo in parapendio, e quindi chi volesse unirsi faremo sulle montagne di Lecco. Abbiamo purtroppo dovuto rimandarlo per motivi di meteo eccetera, però ecco, chi volesse unirsi, siamo già in 6 o 7, quindi lo faremo presto, se possibile appunto entro fine mese o nel mese di agosto. Ecco, ma quindi socializzare diventa quasi un lavoro, mi pare di capire, cioè, è complicato, è impegnativo. Socializzare, ecco, non è semplice, richiede, al di là di tutto richiede secondo me semplicemente la buona volontà, perché si può socializzare a cena, si può socializzare per un aperitivo la sera dopo cena, oppure anche la domenica andando, come è capitato a me, a fare trekking a Erbonne, ad esempio, che è un paese al confine con la Svizzera. Una ragazza carinissima, con la quale tra l'altro esco ancora, mi ha invitato a fare questa escursione, a mangiare la polenta nel comune che credo sia il comune più piccolo d'Italia, quindi ho accettato con molto entusiasmo. Siamo andate e ne è uscita una domenica sicuramente particolare, originale e molto piacevole, in cui abbiamo parlato, ci siamo conosciuti appunto anche con semplicità, quindi non richiede uno sforzo eccessivo, richiede semplicemente secondo me la volontà, la disponibilità d'animo di aprirsi agli altri. Qualcuno ci ha provato? Qualcuno sì, obiettivamente, sì. Devo essere sincera, qualcuno sì, ma insomma sta un po' nel gioco, insomma, credo. Okay. E chiudiamo con un appello, perché sei stata invitata anche a una cerimonia, hai sì. comprato il vestito, poi cosa è successo? Sono stata invitata anche a un battesimo. Disconosciuti? Sì, era un ragazzo carinissimo, mi ha scritto delle mail bellissime dall'Irlanda, e lui è originario di Milano, eccetera, e avremmo dovuto appunto andare, addirittura mi aveva invitato a un battesimo, questo per fare capire anche quanto sia sincero a volte la voglia di far conoscere gli altri a una persona che ha manifestato questa difficoltà iniziale. Quindi è stata un'apertura bellissima, mi hanno addirittura invitato a un evento familiare, no? Come può essere un battesimo, per cui io ho questo abito da cerimonia e adesso vorrei sfruttarlo. Quindi spero che ci sia anche un invito che riguardi una cerimonia, un matrimonio, una comunione, non lo so. Ecco, io ho questo vestito, per cui lancio un appello. Cioè tu andresti anche a un matrimonio disconosciuto? Io andrei anche a un matrimonio, sì sì. Ok. Questi punti. Tutta questa storia diventerà un libro, diventerà un film, diventerà qualcosa. Perché spero comunque, di sì, l'idea c'è. Ha un tratto, sì, assolutamente sì. Surreale. E grazie davvero Marisa, rintracciarti grazie è facile utilizzando la rete o sì. Google o Facebook, insomma, ci sei. E in bocca al lupo per questa per città, per questa città grazie. Che ti sta adottando, o forse hai adottato tu, adesso è tutto grazie. Da capire. Sì. Grazie a tutti voi. Ancora buona domenica da Federico Taddia, questa è la seconda parte di Mine Vaganti, il programma che cerca di raccontare attraverso persone, attraverso storie, un'Italia meno raccontata, un'Italia più nascosta. E in questa seconda parte ci tuffiamo nella cronaca locale, che è un serbatoio importante della nostra realtà, perché lì si scoprono altre quotidianità, altre notizie. Ci giochiamo anche con questa cronaca locale, ogni settimana andiamo alla ricerca di alcune notizie belle, curiose, anche divertenti, e le commentiamo insieme a degli autorevoli amici e opinionisti. E oggi con noi c'è una persona che la cronaca locale la mastica quotidianamente, perché spesso prende spunto da lì per elaborare poi i suoi. Buongiorno, do il benvenuto a Massimo Grammellini. Ciao Massimo. Buona domenica, ciao. Buona domenica a te, ti abbiamo disturbato, sei in redazione, vero? Sto giornale, ci sto lavorando. E ti sei nascosto in bagno, no? Cioè, nel senso, lo puoi fare tranquillamente dalla tua scrivania. No, sono nella mia stanza, sto studiando, che sto facendo con Fruttero la storia d'Italia a puntate. Stavo leggendo la storia di Carlo Rosselli, il grande campione dell'antifascismo ucciso negli anni 30. Quindi insomma devi anche studiare, ovviamente. Un altro mondo, planiamo nella realtà del 2010. Allora Massimo, partiamo con alcune notizie che ho trovato sui quotidiani locali, e partiamo proprio dalle pagine locali del tuo quotidiano, dalla Stampa. E non so se lo sai, ma fra 3 giorni, 5 ore e 50 minuti in questo istante, Monopoli deciderà quelle che saranno le 22 nuove caselle. E sulla Stampa di Sanremo, Imperia e Provincia, sprint finale per una casella su Monopoli, c'è l'assessore del comune di Sanremo che ha fatto un appello ai cittadini affinché vadano sul sito a votare, perché sennò Sanremo rischia di rimanere escluso dal nuovo casellario del Monopoli. Ma ci vado subito anche, ma c'è la possibilità di mettere una via di Sanremo oppure il nome Sanremo? No, solo Sanremo. Vicolo Sanremo. Pensa che in testa in questo momento c'è Chieti con 212.000 voti, quindi una classifica che farà molto discutere. Ma quindi scompaiono tutti i nomi meravigliosi: Via dell'Accademia, Piazza della Vittoria. Sì. Nomi di città adesso. Sarà triste, ripensando. Sarà triste. Un'edizione nuova legata ai 150 anni, anche loro, dell'Italia, con 22 città. Rimaniamo invece a Chieri, siamo sempre in provincia di Torino, e questa è una storia molto divertente. Le nonne alla guerra delle biciclette. Pare che a Chieri ci sia un gruppo di pensionate, si fanno chiamare le Pantere Grigie, che stanno cancellando tutti i cartelli di piste ciclabili perché loro su quelle piste vogliono passeggiare tranquillamente, e quindi obbligano i ciclisti a non andare in bici. Così loro dicono: possiamo camminare noi senza il rischio di essere travolte. E insomma, capisci, in Italia è così, naturalmente i ciclisti danno fastidio ai pedoni, gli automobilisti danno fastidio ai ciclisti, i vigili danno fastidio agli automobilisti, quindi diciamo c'è sempre una categoria che invade l'altra, e che siamo sempre molto bravi noi quando dobbiamo far valere i nostri diritti, ma naturalmente un po' meno quando dobbiamo rispettare quelli degli altri. Parla uno che tutte le mattine viene a lavorare a piedi camminando sulla pista ciclabile e arrabbiandosi quando un ciclista passando mi tocca la una gamba o mi manda giustamente a stendere perché invado il suo terreno. Tra l'altro alcune di queste Pantere Grigie, anche se nessuna di loro, c'è un po' di omertà tra queste pensionate, nel senso che nessuno ha ammesso di essere una Pantera Grigia, però si spalleggiano. È bella la dichiarazione del sindaco di Chieri che dice: la città è di tutti e un gruppo di anziani non può dettare legge. Sembra, capito, un gruppo di bulli, questo gruppo di anziani, e invece vogliono passeggiare tranquillamente in una via che è sempre stata loro. Federico, perché i pedoni non prendono mai multe, ma fanno una quantità di danni sulla strada, sono pericolosissimi. Lo dico da pedone. Cioè. È vero, perché insomma, pensando di non essere pericolosi, a volte la distrazione. Mentre due notizie che si assomigliano anche, perché è quando la volontà popolare prende piede. Il primo dalla Gazzetta di Modena: prete allontanato, siamo a Concordia, continua lo sciopero delle offerte. Cioè, i fedeli stanno protestando per questa rimozione di un sacerdote e quindi non fanno più le offerte durante la messa. E non è male come protesta. Ora mi viene in mente sempre quando nei libri di Guareschi, quando viene allontanato Don Camillo, no? E che arriva il nuovo pretino, e anche lì addirittura sono i Peppone e i comunisti che vanno in chiesa incrociando le braccia perché rivogliono il loro vecchio nemico, che però per il quale avevano grande rispetto. E secondo me sono interessanti queste forme di protesta, dimostrano che ci sono ancora delle comunità, questo paese che sembra fatto di tanta solitudine, poi in realtà esistono tante piccole comunità con i loro codici, con le loro regole e anche con le loro vendette in qualche modo. Mm-hmm. E un'altra ribellione di un'altra comunità, la racconta Il Resto del Carlino di Rimini: hanno trasferito il bagnino, una spiaggia si ribella, e siamo a Milano Marittima, petizione fatta da un gruppo di quarantenni che rivogliono il vecchio bagnino. Ma perché? Io vorrei sapere, ma quelli che fanno questi cambiamenti, magari ogni tanto informarsi anche, no, del gradimento che queste figure hanno presso il pubblico di riferimento, sarebbe mica male, no? Cioè, ho come l'impressione che viviamo in mondi un po' burocratici, no? In cui le cose vengono spostate, cioè probabilmente chi ha spostato questo bagnino poteva anche rendersi conto che stava facendo un errore, se magari fosse andato una volta anche lui in spiaggia a vederlo all'opera, ma chi prende queste decisioni di solito non vive nella realtà vera. E infatti la quotidianità della cronaca locale è essenziale, perché hai veramente tanti spaccati del nostro paese che però alla fine sono spaccati autentici. guarda, è la cronaca, è quella che consente di fare i grandi discorsi. Io penso sempre che le notizie cosiddette piccole sono quelle che hanno la morale più grande, perché sai, sulle grandi notizie, quando tu leggi tipo, non so, oggi Duisburg, 19 morti, cosa vuoi dire di fronte alle tragedie? La lezione è minima, paradossalmente, mentre è nei piccoli episodi che si celano le grandi verità dell'uomo e della nostra vita e del nostro tempo. Massimo, tu sei esperto anche di cose d'amore, questa notizia, siamo nelle pagine locali del Mattino, la storia, lei lo lascia, vendetta a Luci Rossi su YouPorn, lei l'ha lasciato, lui si è vendicato caricando su questo sito dei video hard che la vedevano protagonista, ha fatto un falso profilo in Facebook lui e si è presentato al nuovo fidanzato di lei dicendo guarda un po' con chi ti sei fidanzata, oltre 50.000 contatti e una storia che insomma rischia di finire appena iniziata. Cosa vuoi che ci dica? Se avessi 20 anni adesso avrei paura, sinceramente. Sono contento di aver avuto 20 anni in un'epoca in cui le armi di ricatto al limite si limitavano a qualche lettera, no? Una cartolina, ti ho scattato una foto quando eri ubriaco alla festa dei 18 anni. Ecco, adesso veramente l'idea che ti possano filmare di nascosto e mandare su internet, oppure addirittura costruire delle false identità in questo mondo, che poi è un mondo incancellabile, cioè tu prova a eliminare una cosa che esce su internet che ti riguarda, magari falsa, che tu sai non essere vera, non c'è verso, resterà per sempre questa traccia della tua vita fasulla in rete per sempre. È una cosa a pensarci anche un po' inquietante. Assolutamente, e fa sorridere anche che accanto l'articolo ce n'è un altro che dice: paura del demonio, 5.000 incontri in chiesa, 2 esorcisti in più nella diocesi di Napoli. Così per chiudere, e quelli li hanno lasciati, non li hanno mandati via nel parroco, no, quelli sono rimasti. Quelli sono rimasti. Un'ultima notizia dalla Gazzetta di Mantova, e non credo ci sia neppure bisogno di un commento: il gallo canta fuori orario e fa impazzire il quartiere, e proteste in città, caccia notturna al volatile in fuga dal pollaio. Mezza pagina. Non sono più i galli di una volta. Il gallo che canta 3 volte, quindi cantava fuori ritmo. Questo se lo beccano e gli tirano il collo, l'unica cosa sicura è quella. Povero gallo. Massimo, grazie davvero per essere stato con noi, per aver giocato con la cronaca locale, e buono studio, visto che sei lì che stai studiando la storia d'Italia. Ciao, buona domenica. Quante mine vaganti si trovano sfogliando i quotidiani locali, rimaniamo quindi con le testate di provincia per raccontarvi alcune di queste storie. Sono italiani con idee, con progetti, a volte stravaganti, a volte innovativi, a volte vedono dove altri non vedono, e altre volte molte volte queste idee diventano anche progetti concreti. E questa storia l'ho scoperta leggendo un titolo: sotto al pavimento spuntano i geologi. Siamo sempre a Napoli e sì, una veterinaria che si sente bussare sotto al pavimento non capisce cosa sta succedendo. In verità era un geologo che stava esplorando un nuovo percorso, perché lui si è inventato questa associazione borbonica sotterranea a raccontare un'altra Napoli, la Napoli del sottosuolo. Lui si chiama Gianluca Manin ed è qua con noi. Ciao Gianluca! Buonasera a tutti. Allora, sveliamo che è stato un po' romanzato, vero, l'articolo? Un 10%. Nel senso che? Nel senso che se io avessi bussato, avessi bucato e avessi trovato il faccione della dottoressa lì di fronte a me, probabilmente l'avrei trovata in compagnia dei carabinieri, ovviamente. Ma perché tu ti eri accorto esplorando questo cunicolo? Sì, nel senso che io con alcuni collaboratori dell'associazione culturale ci siamo occupati da circa 5 anni della rivalutazione di un percorso sotterraneo che è il tunnel borbonico, realizzato nel 1853 da Ferdinando II di Borbone. È un percorso militare per congiungere Palazzo Reale con una caserma dell'esercito dall'altra parte della collina di Monte di Dio, e abbiamo ricominciato a pulirlo perché era pieno di detriti, di rifiuti, e un paio d'anni fa troviamo il collegamento con un'immensa cavità a fianco al tunnel, usata in epoca bellica come ricovero. C'erano i letti, le scritte, i bagni. Quindi era un rifugio? Sì, quindi piano piano abbiamo cominciato a pulire pure quella oltre il tunnel, e circa 6 mesi fa abbiamo fatto una scoperta. Pulendo una piccola cisternetta abbiamo visto che la parete non era di tufo ma era di muro, quindi abbiamo buttato giù il muro perché noi non sopportiamo la possibilità che ci sia qualcosa di sconosciuto, siamo curiosi, e quindi abbiamo bucato il muro, e dietro il muro è uscita una marea di terra che veniva dall'alto. Abbiamo cominciato a pulire sono usciti dei gradini e quindi abbiamo capito che era una scala, una vecchia scala ottocentesca che consentiva a chi faceva manutenzione delle cisterne di scendere giù dalla strada e abbiamo cominciato a pulirla, ci abbiamo messo 3 mesi. Io e il mio collaboratore Enzo, Deluzio, geologo come me, e che saluto, sta in qualche spiaggia della Puglia a recuperare dalle fatiche. Un po' di sole finalmente, dopo tanto buio, un po' di sole, certo. Esatto. E abbiamo cominciato a pulire, levare terra, ci abbiamo messo 3 mesi e un giorno siamo riusciti a salire e queste 8 rampe di scale e siamo arrivati in una piccola deviazione e dalla sotto abbiamo sentito abbaiare i cani. E quindi, perché loro ci sentivano, e quindi noi eravamo preoccupati perché non sapevamo esattamente dove fossimo. E quindi abbiamo fatto dei rilievi con bussole, distanziometri laser, abbiamo capito un po' la zona. Poi abbiamo fatto un sopralluogo da fuori e abbiamo scoperto che sopra c'era un bel veterinario. Quindi siamo entrati dentro, tutti sporchi, e abbiamo cominciato a raccontare questa bella storia alla veterinaria che ci guardava come fossimo degli allucinati. Ci credo, vi ha creduto? Sì, ci ha creduto perché queste storie sono difficili da inventare, non è che, voglio dire, poi gli abbiamo raccontato che eravamo lì sotto il suo pavimento già da settimane, che sentivamo i suoi cani abbaiare, che avevamo avuto la concessione dal demanio per gestire questa cavità, che era tutto, che l'avevamo illuminata e quindi abbiamo chiesto alla dottoressa di cederci il locale per realizzare una seconda uscita al tunnel, anche come via d'aria. E poi perché ci piaceva l'idea che si entrava da una parte di Napoli, si usciva dopo circa 500 metri dalla parte opposta. Fantastico. Lei è stata collaborativa. Stata collaborativa, esatto. Questa è stata la cosa importante, per cui poi la storia c'è stata. Abbiamo preso i martelli pneumatici, siamo saliti da sotto, abbiamo tirato sui cavi elettrici e con i martelli pneumatici abbiamo bucato e siamo usciti sotto la scala davanti a lei. Grandioso. E i cani finalmente? I cani erano stati già esiliati perché ci sono rimaste le gabbie che io non butterò, che non voglio dire eliminare, perché la cosa carina è che uno entra in un veterinario e poi c'è una porta che conduce a una Napoli del 600, dell'800. Grandioso. Perché Gianluca, tu in questo percorso che aprirete a settembre, mi pare, vero? Sì, faremo l'inaugurazione credo fine settembre, se tutto va bene. Benissimo. Tutto ciò che hai trovato lo hai lasciato? Certo, tutto sì, abbiamo trovato. Allora, una dozzina di macchine d'epoca. Ma perché? Degli anni 30. Scusa, le avevano nascoste? Come sono finite? No, sì, perché dopo la guerra, questa è una cosa incredibile, perché immaginate l'acquedotto del 600 che portava l'acqua a una gran parte della città di Napoli, si chiama acquedotto del Carmignano. Sì. Poi nel 1853 realizzano questo tunnel e tagliano le cisterne del 600, quindi poiché avevano paura che gli crollasse tutto addosso hanno cominciato a realizzare ponti, mura, hanno fatto delle opere civili borbone esagerate. Dopodiché è stato usato come ricovero bellico durante la guerra, ci arrivavano lì a nascondersi 10.000 napoletani sotto le bombe, prima americane, poi tedesche. Sì. E dopodiché è stato usato come deposito giudiziale, quindi ci andavano a infilare le macchine sequestrate, i contrabbandieri di sigarette oppure le macchine incidentate, e là sono rimaste. Quindi abbiamo trovato sotto i rifiuti una dozzina di macchine d'epoca degli anni 30-40, poi abbiamo trovato, ci sono una ventina di moto e vespe, lambrette, biciclette. E circa 5 mesi fa, sotto un cumulo alto 8 metri, sono uscite 6 statue di epoca fascista e altre 4 metri che erano state nascoste e dimenticate subito dopo la guerra. Vecchi CD di Gigi D'Alessio, no? No, CD li troviamo, ma li troviamo come immondezza buttata da alcuni pozzi che incidono sulle cisterne. Questo è il lato meno carino della storia, ma che ci servirà per fare educazione ambientale, nel senso che non li abbiamo ripuliti tutti questi cumuli di rifiuti, perché vogliamo insegnare ai ragazzini cosa vuol dire buttare la roba nel posto sbagliato, perché sì, vuol dire inquinare dei posti che hanno una valenza storica esagerata. Sì, vuol dire nascondere il problema, non certamente risolverlo. Non si fa e noi lo mostreremo, non alle persone grandi perché per loro c'è poca speranza, ma ai ragazzini c'è ancora qualche speranza, insomma. Gianluca, complimenti davvero e rimaniamo in contatto, però, perché ci piace questa cosa e magari tenteremo anche di fare una esplorazione via radio. Tenete conto che adesso stiamo facendo l'impianto elettrico a norma, manca un 20%, quindi il tunnel e le cavità vicino, i percorsi sono praticamente pronti. Adesso dobbiamo sistemare il negozio, nel senso che dobbiamo creare le condizioni per poter accettare turisti che arrivano così, proprio in termini di sicurezza, di sistemare i problemi problemi logistici, ma voglio dire, c'è un mese di lavoro, passeremo i primi 15 giorni di agosto sotto a lavorare e poi, se tutto va bene, a fine settembre inauguriamo, e quindi siete invitati, ovviamente, come tutti quelli che stanno ascoltando. Certo, rassicuriamo la categoria, cioè, la veterinaria ha solo cambiato posto e non ha perso il lavoro. No, si è spostata a fianco, anzi è una fedele collaboratrice. Esatto, si diverte. Grazie davvero Gianluca Minin dell'associazione Borbonica Sotterranea, giusta, sì, questa, esatto, la giusta dicitura. Ciao e buona domenica, grazie davvero buona per averci raccontato la tua storia. E sempre sfogliando la cronaca locale abbiamo trovato un'altra storia che ci ha incuriosito, ma lì abbiamo voluto convocare la giornalista di provincia che ha dovuto seguire questo caso, la testata l'Unione Sarda, il titolo: Ogliastra Felix, record di nascite sotto i tacchi, il caso di Gerzu o Ierzu, adesso scopriremo come si pronuncia. Fino a ieri natalità zero, oggi ci sono 46 bebè in arrivo. Il pezzo è scritto dalla collega Giusi Ferreli. Ciao Giusi. Ciao, buonasera dall'Ogliastra. Non proprio, ma insomma. Siamo lì. Ierzu? Ierzu. Scusa, questo era complicatissimo. Allora, tu una paginata intera hai seguito questo mistero di questa cicogna che nel 2010 arriverà ben per 47 volte, pare, in questo piccolo comune. Cos'è successo? Perché tu una tua teoria ce l'hai, vero? Ma sì, ma io stai raccogliendo le voci del paesello che conta appena 3.300 anime, si è scoperto che il digitale terrestre ha fatto le bizze. Quindi per un anno gli ierzesi ci hanno dato sotto. Veramente non c'è altra spiegazione, anche perché fino all'anno scorso la natalità era bassissima. Quindi il famoso switch off, lì è stata una delle prime zone d'Italia in cui non si è più potuta vedere la televisione e tu dici che ha favorito... Sì, ha favorito il baby boom alla fine. Ovviamente noi scherziamo su questa circostanza, come dire, del tutto... è una coincidenza, tu dici? Ma certo, chiaramente. Probabilmente ha ragione il sindaco quando dice che è una comunità solida che lavora e che ha voglia di accogliere le nuove nascite, i nuovi bambini. La cosa simpatica di questa storia è che c'è una signora, tra l'altro molto giovane, una neomamma, che ha tenuto la contabilità degli eventi. In che senso? Nel senso, aveva la sua agendina e annotava, aggiornava costantemente, come dire, le pance che via via gli evitavano nel paese. Non solo, il marito, quindi il neopapà, il bimbo si chiama Nicola, sì, tra l'altro è nato in maniera un po' rocambolesca nel bel mezzo del trasferimento del reparto di ostetricia di maternità del nostro ospedale, il papà si è preso la briga di analizzare, come dire, la media statistica in Italia. Ah, quindi ha fatto proprio un calcolo statistico, un'analisi statistica. Sì, l'ha fatto. Praticamente in Italia nascono 9 bambini ogni 1000 abitanti. Sì. Ierzu ha 3.300 abitanti, i nuovi nati saranno 47-46, per cui praticamente sono ben al di sopra della media. Una ventina di nuovi nati in più. Non per è un paese di 3.300 anime, insomma, non è davvero poco, un piccolo primato. Giusi, scusa, ti faccio una domanda personale, sì, per capire anche la psicologia della giornalista della sì, cronaca locale. Quando ti hanno chiesto di scrivere questo pezzo, tu cosa hai pensato? Come ti sei mossa? Cosa hai fatto? No, ma sai, sono andata a intervistare la signora della contabilità, la ragioniera facile delle nuove, sì, degli etti eventi, tra l'altro molto simpatica. Io, tra l'altro, ho contribuito anch'io alla riproduzione del genere umano, sono al di sopra della media nazionale anch'io, per cui l'ho presa veramente, come dire, come una bella esperienza, una bella chiacchierata. Ok, poi ci piace pensare che sia stato tutta colpa dello switch off. Grazie davvero, Giusi, e complimenti per il tuo pezzo. Voglio vivere ancora. Quel sogno cos'è? Yeah. Voglio vivere a colori. Abbiamo chiesto a Fiorello in prestito questa canzone. Credo che lui sia d'accordo con me. Una comunque delle più brutte canzoni mai scritte. Però è a questa bella idea di vita colorata. E rappresenta bene per noi l'essere anche mine vaganti. Vi abbiamo chiesto in questi giorni, ve lo chiediamo ancora, di proporvi come mine vaganti. Se fate qualcosa di particolare, qualcosa di curioso, qualcosa di bizzarro, o se comunque voi stessi vi sentite mine vaganti, schegge impazzite, potete contattarci. L'indirizzo email è minevaganti@radio24.it. E in questa parte di programma apriamo i microfoni a voi mine vaganti che ci avete scritto. La prima email è: salve, mi chiamo Diego Porene, sono uno scrittore e poeta, ho 28 anni e vivo in Puglia. E il mio primo libro, una raccolta di poesie intitolata Processi inversi, ha ricevuto la prefazione del maestro Giorgio Albertazzi, che ha descritto la mia poesia come poesia etica e di indignazione, molto ritmata e con un suono intenso simile ad una musica jazz. E noi qua con noi abbiamo Diego Porena. Ciao Diego. Ciao Federico. Ciao. Guarda che insomma definirsi poeta oggi non è facile, vero? Beh, insomma, la poesia è, oggi come oggi è un... Cioè, un po' tutti, diciamo, siamo poeti, nel senso che tutti quanti prima o poi scrivono qualcosa, immagino, no? E ci passano un po' tutti quanti, però è sempre un argomento un po' di nicchia, un po' difficile da diffondere, ecco, da leggere. Più che altro una persona preferisce leggere fare delle letture diverse come romanzi e cose così. La narrativa. Tu però abbiamo fatto un minimo di ricerca. Sei famosissimo nella tua regione, oggi ti facciamo anche varcare i confini. Come hai fatto a convincere Albertazzi a scriverti la prefazione e comunque ad adottarti di fatto? Ma praticamente diciamo che io l'ho conosciuto e ho avuto questa fortuna e gli ho fatto leggere alcuni dei miei versi e successivamente sono rimasto, ecco, come si dice, insomma, un po' basito, nel senso che lui mi ha voluto scrivere un commento a questi versi perché ha trovato degli argomenti, ha trovato una scintilla, qualcosa di particolare, di diverso. E per questo è lui che ha deciso di scrivere un commento su questi versi. Successivamente, quando poi ho mandato tutto agli editori, l'ho rincontrato e abbiamo parlato di questa prefazione, che lui è stato molto è stato molto felice di scrivere. Ma Diego, oggi ci campi di poesia, è la tua professione? Cosa? Non ho capito, declamo? No, ci vivi, riesci a guadagnarci? Sì, anche? Insomma, vabbè. Magari sarebbe la cosa più bella, però diciamo che è un aiuto, più che camparci ci si vive meglio, no? Certo. Fondamentalmente. Comunque sei giovane, insomma, mi sembra che la strada abbia avuto un buon inizio, quindi perché no? Perché non riuscirci? Certo. Diego, hai un sito, ma in rete, insomma, basta digitare il tuo nome, Diego Porena, e c'è il tuo sito e un sacco di articoli che ti riguardano. Ci vuoi lasciare con una poesia, con un tuo scritto? Sì, come no, sicuramente. E come ti definisci come poeta? Di cosa parli? Ma io, ecco, queste particolarità nella poesia che ha trovato il maestro Albertazzi sono appunto di un tipo di poesia di indignazione, non poesia d'amore, ecco, non la classica poesia d'amore, ma una poesia di indignazione, soprattutto etica sulla società, insomma, che rispolvera, che richiama dei fenomeni che accadono nella società moderna, nelle metropoli, ecco. Questo è l'argomento. Però le poesie non vanno spiegate, le poesie vanno dette, vanno lette, vai. Allora, ogni tanto vien da chiedermi, ma dove sono? Respiro, osservo, vivo e mi muovo tra l'asfalto, il cemento dei palazzoni, luci e semafori, automatismi che corrono su incroci di percorsi fumanti, uffici e oggetti in plastica, strani mobili senza vita e tanti luci al neon. Che cos'è questo mondo tagliuzzato in prospettive amare, senza amore e ripiegato in sintassi fredde e precostruite? Un mondo composto a norme preposte per tutto, per ogni cosa. Un mondo dove sorriso e spontaneità sembrano manifestazioni del tutto sconosciute, rimpiazzate da fenomeni di dipendenza e di pregiudizio che alterano la realtà individuale e fisica del mondo. Finisce, Diego? Ci siamo quasi? Sì, un mondo senza l'immaginazione, perché pare che questa non serva, così ci hanno detto, senza i sogni e i pensieri astratti, perché non sono utili, ci informano. In cambio però abbiamo McDonald's e tanti Mac Super Panini, gli abbagli delle vetrine infinite e la pubblicità incalzante del rasoio elettrico, la marca delle calze e gli iper super mega mercati per portare i bimbi così che imparino da subito le giuste e sane regole di vita. Questa Albertazzi l'aveva letta, sì? Eh beh sì, è ok, libro, perfetto. Quindi... Grazie davvero Diego Mina Vagante che si è proposta al nostro indirizzo email minevaganti@radio24.it. La prossima Mina invece è uno che sta vagando tanto e lo sta facendo da diversi anni. Si chiama Vittorio Napoli e la sua impresa, iniziata nel 2002, è quella di seguire il periplo dell'Italia a piedi, e là dove non si può fare a piedi lui nuota. Diamo il benvenuto a Vittorio Napoli. Ciao Vittorio. Ciao e buona domenica a tutti. Sei coi piedi in acqua o sei all'asciutto? No, sono nei sandali. Allora Vittorio, raccontaci bene quella che è la tua impresa. Ma io sto seguendo il perimetro dell'Italia, come avevi detto prima, e ho cominciato nel 2002, partendo da Punta Campanella in Campania, che è la mia regione, sì. Però vivo a Trento, e seguendo ogni anno un pezzo della costa italiana, tappa dopo tappa. L'anno successivo riprendo da dove ho lasciato l'anno precedente, sono sceso giù verso Basilicata, Calabria, poi ho fatto tutta la Sicilia, l'anno scorso ho finito tutta la Sicilia, cioè tutta, l'ultimo pezzo. Sì, quello che ti mancava. E quest'anno avevo una scelta da fare, o proseguire per la Calabria, quindi continuare verso la Puglia, oppure passare in Sardegna a fare l'altra isola italiana, grande, no? E allora ho deciso per la Sardegna, visto che è un posto molto selvaggio, molto, diciamo, primordiale, naturale, e merita veramente di essere visitato prima che succedano strane cose. Ma quindi là dove c'è la spiaggia tu cammini, invece quando non si può camminare perché la morfologia del territorio non lo permette, tu ti butti in acqua. Precisamente, sì. Io cammino dove posso arrampicarmi anche un po', passare sui massi, saltare da un masso all'altro, poi quando proprio diventa difficile, quando appunto le pareti delle rocce vanno a finire perpendicolarmente in acqua, allora il mio zaino, che è come una mini zattera appunto, dove c'è dentro tutto quello che mi serve per dormire, mangiare, materiale vario, per sopravvivere insomma, allora prendo il mare e con le pinne e con la muta che indosso, che mi tiene un po' a galla, un po' al caldo, certo. Continuo fino ad arrivare al prossimo tratto dove è possibile poi camminare. Tu hai fatto astronomia a Padova, poi fisica a Trento, quindi sei uno anche che di scienza se ne intende, e hai applicato le tue conoscenze all'attrezzatura che utilizzi? Più che altro l'ho applicata diciamo alle conoscenze della montagna che ho approfondito qui a Trento, moschettoni, sacchi impermeabili, basto di alluminio, un po' di materiale tecnico, ma non cose da fantascienza insomma. Comunque ho abbinato appunto la montagna, il mare, essendo di Salerno il mare mi manca a Trento, quindi con il cammino e la nuotata vado avanti, e quello che mi piace, quello che mi spinge è la curiosità proprio, quello di vedere, conoscere cosa c'è dietro quella punta, cosa c'è dietro quello scoglio. Però scusa, scatenerai anche la curiosità dei turisti, perché sono lì in spiaggia e vedono arrivare questo marziano, cosa ti chiedono, come reagiscono? Ma loro mi vedono, alcuni così restano un po' indifferenti, altri mi guardano incuriositi, altri mi vengono incontro anche per chiedermi cosa sto facendo. Quest'anno è stato particolarmente felice di incontri, perché c'erano persone che facevano parte del CAI, del Club Alpino Italiano, e che mi hanno proprio fermato letteralmente per chiedermi che tipo di attività stessi facendo, no? Attività trekking o qualcosa del genere. Poi quando mi vedevano in mare a volte mi hanno scambiato anche per un naufrago, infatti hanno chiamato i carabinieri un giorno. Ecco, ma per esempio... mi sono trovato allo sbarco una pantera dei carabinieri sulla scarpata in località Coccorocci, un po' sperduto. Che voleva capire, appunto. Come? Voleva capire chi sì, tu fossi. Infatti erano venuti lì perché ero stato segnalato da qualche natante. È stato comico perché allo sbarco, quando sono arrivato sulla spiaggia dopo una traversata via mare, mi sono trovato l'appuntato che mi ha chiesto un po' di informazioni, mi ha detto cosa stavo facendo, poi ha capito e poi tutto si è concluso in una tazza di caffè offerta anche degli operatori, certo, che mettono a posto i sentieri e le zone un po' attrezzate, certo, della Sardegna. Ma adesso quanto starà in Sardegna quindi? Calcolando un po' come ho fatto per la Sicilia, che mi ci sono voluti circa 5 anni, siccome la Sardegna è leggermente più piccola ma è molto frastagliata, credo che ci sarà più o meno lo stesso numero di anni, non so, dipende anche un po' dalle condizioni del territorio. Ma quindi hai fatto qualche calcolo? La tua impresa terminerà nel 2000 e? Per la Sardegna appunto tra 3-4 anni. E il resto d'Italia? Poi adesso non oso minimamente pensarci perché... No, non è da Guinness, ecco la mia impresa. No, io vado avanti molto per la curiosità, slow, l'amore per la natura soprattutto. Molto quella slow che mi spinge avanti. Vedere posti incontaminati, posti belli che l'Italia ne ha tanti. Eh sì, insomma, tu hai la possibilità di vederli da questa tua posizione assolutamente privilegiata. Sì, una cosa volevo aggiungere. Sì. Io faccio in modo da passare come un'ombra. Diciamo, arrivo in un posto e cerco di lasciarlo come... l'ho trovato, ecco, un minimo impatto ambientale zero, quindi vuol dire essere di passaggio, come lo siamo tutti su questa terra ormai. Insomma, turismo invisibile però, esatto, che ti dà tanto. Grazie davvero Vittorio, complimenti per la tua impresa, e insomma, visto che andrà avanti per... Senti, anni... Volevo ringraziare io, sì, a voi che mi avete invitato, e anche le persone che ho incontrato che mi hanno... aiutato durante questo percorso. Ok, questo grazie arriverà sicuramente a loro. Ciao Vittorio, ciao. Mine Vaganti, com'è da tradizione, anche se è solo la seconda puntata, e lo sappiamo che ci piace terminare sempre con una mina vagante artistica. Andiamo a setacciare un po' il mondo degli artisti italiani e andiamo a cercare un po' di eccellenza, anche se questa eccellenza molte volte lambisce il campo dell'eccentrico o dello stravagante. E come sempre vi introduciamo con una sonorità molto particolare. Che state ascoltando non è il suono di un'orchestra, ma è il suono di una chitarra medusa, così come la definisce lui. In verità è una chitarra preparata sarda, questo è il nome che ha scelto per definire il suo strumento. Ne esistono due di queste chitarre, una la suona lui che l'ha ideata e lui che l'ha inventata, l'altra ce l'ha Pat Metheny, che spesso la utilizza durante i suoi concerti. Pat Metheny, che proprio questa sera terrà un concerto a Barcellona. E là a Barcellona, dove vive, c'è Paolo Angeli. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Buonasera a te, come stai? Benissimo, sono qua in Costa Brava perché in realtà è a qualche chilometro da Barcellona il concerto, in una splendida località balneare, per cui associamo il piacere della musica al piacere di vivere il mare, insomma. La storia di Paolo è una storia bellissima. Tu sei sardo, hai studiato a Bologna, ora però hai scelto di vivere a Barcellona, come mai? Ma diciamo che è stata una casualità, molte volte nella vita queste scelte avvengono un po' per caso, cioè sono stato qua per un concerto e mi sono letteralmente innamorato di questa città, che tra l'altro trovo estremamente collegata culturalmente alla Sardegna, non fosse altro per il triste passato, cioè, che ci hanno colonizzato per 100 anni. Però per fare un esempio, mia madre ha un cognome catalano, per cui c'è un'affinità culturale estremamente profonda. Ecco Paolo, tu sei un musicista, sei un chitarrista e hai inventato, hai realizzato uno strumento musicale che prima non esisteva. Noi stiamo ascoltando questa musica. Se la puoi far vedere questa chitarra, com'è fatta? Guarda, per quello che state ascoltando in questo momento, immaginate di vedere un chitarrista che suona la chitarra in posizione da violoncellista. Sì. Immaginate che da questo strano strumento piovano una serie di cavi di bicicletta, per l'esattezza 6, uno collegato per ogni martelletto che impatta su ogni singola corda. E questi cavi sono collegati a delle pedaliere, per cui io con i piedi, mentre suono con l'arco, posso sviluppare tutta la parte della linea di basso. Poi ci sono 6 eliche per generare dei suoni continui un po' sullo stile della ghironda. E oltre a questo ci sono ulteriori corde aggiuntive, complessivamente le corde sono 18, per cui uno strumento orchestra, come l'hai definito tu, una sorta di punto d'incontro fra 3-4 strumenti diversi. È bellissimo vedere Paolo Angeli suonare questo strumento, anche su YouTube c'è qualche video, oppure è anche appena uscito questo Tibi, che è un CD e DVD dove è possibile vederti all'opera. E Paolo, questa chitarra nasce tanti anni, immagino, di studio e di lavoro, e poi questo strano matrimonio con Pat Metini, com'è andata? E questo è un altro, non lo so, a volte sai le fiamme che si materializzano, no? In realtà io quando avevo 15-16 anni avevo proprio il mito di Pat Metini, un po' come tutti i chitarristi che arrivano dal rock e si avvicinano al jazz, se non che nel 2001 io sono trovato ad aprire un suo concerto con questo strano strumento, lui è rimasto letteralmente folgorato, da lì è nata una collaborazione che ha portato alla nascita di queste due chitarre gemelle, la costruzione è avvenuta a Bologna nella liuteria Stanzani con la collaborazione di Francesco Concas, che è il mio meccanico di fiducia. E la cosa favolosa è stata poi che lui da questo strumento ha sviluppato Orchestrion, che è poi l'ultimo lavoro che ha presentato da vivo in Italia durante la primavera, ossia un'intera orchestra elettromeccanica, cioè partendo da questo strumento ha allargato il concetto a tutta una serie di strumenti acustici per realizzare un centinaio di prototipi che sono proprio una orchestra meccanica, lui comanda via MIDI. Ma quindi tu gli hai, oltre a fornirgli la chitarra, gli hai dato anche le istruzioni, cioè, tu hai insegnato a suonare la chitarra a Pat Metini? Ma no, assolutamente no, quello no, nel senso chiaramente lui poi ognuno, io penso che la parola strumento sintetizzi un po' il discorso, cioè strumento è un qualcosa che l'essere umano utilizza per produrre musica, quindi alla base c'è un'idea musicale, chiaramente l'idea musicale di Pat Metini è diversa da quella che ho io, lui per dire, io ho avuto modo di assistere a un suo concerto col mio strumento e produce una musica completamente diversa da quella che posso fare io, per cui sicuramente Pat ha trovato il modo originale, assolutamente personale di utilizzare questa chitarra. Tu adori le contaminazioni, il tuo strumento è una contaminazione, e però appunto hai anche un incontro con la musica popolare sarda, e adesso ascolteremo un brano estrapolato da questo tuo CD dove c'è anche del cantato. Che cos'è? Allora, intanto ci tengo a dirlo, il DVD in realtà è un progetto a due voci, cioè da parte mia la parte musicale e dalla parte invece fotografica Nanni Angeli, che ha lavorato proprio alla creazione di questo lavoro in fase di attiva al 50% rispetto a me. Sì. E Tibi sintetizza proprio la traccia che ascoltiamo adesso, un percorso comune, cioè noi per 15 anni abbiamo lavorato per la documentazione della Settimana Santa in Sardegna, soprattutto a Castelsardo e Cuglieri, e proprio a Castelsardo si sviluppa questa processione favolosa in cui nel momento della deposizione del Cristo dalla croce si canta appunto il Tibi, che non è altro che un estratto del Miserere. Questa musica per me fino a un certo punto rimaneva completamente scollegata dal mio percorso creativo, più diciamo legata alla sperimentazione, e probabilmente questo è uno dei primi momenti in cui sono riuscito a mettere insieme le due anime, cioè la parte più sperimentale e la parte invece che fa riferimento alla tradizione, che è la parte vocale, in questo caso il Tibi, che è una rielaborazione del Tibi di Agius, di un altro piccolo centro gallurese. Buttiamoci anche noi quindi a sentire l'anima di questa musica. E Per respirare il clima di cui ci hai parlato, prima di salutarci, una curiosità: l'ultima volta quando ti ho incrociato stavi cercando l'indirizzo di Bjork per fargli arrivare un tuo CD, com'è andata? Vabbè, questo è l'altro sogno del cassetto. Diciamo che il CD è arrivato a destinazione, adesso vediamo se avrà degli sviluppi questa cosa. Comunque so che lei il CD è piaciuto, per cui non faccio, cioè incrocio le dita, poi si vedrà. No, e non fare scherzi, se vai a suonare con Bjork vogliamo essere, se vogliamo essere i primi a saperlo, ok? Perfetto, intanto vi ringrazio e vi auguro una piacevole serata con i vostri ascoltatori. Anche a te, ciao, ciao Paolo, grazie davvero. Paolo Angeli, la sua chitarra sarda preparata. Con lui chiudiamo questa puntata di Mine Vaganti. Vi ricordo, minevaganti@radio24.it. Se volete scriverci e se vi volete proporre, la puntata sarà anche scaricabile in podcast dal sito radio24.it. Ringrazio Margherita Ina che ha collaborato alla realizzazione della puntata, Pietro Lacorte alla parte tecnica e Leonora invece al centralino per prendere le vostre telefonate. Buona serata, sempre in compagnia di Radio 24. Ciao!